nessuno sa vincer le bellezze. A mio mestiere smantellar fortezze. Buon uomo, don due colpi la scalata, ti do la figlia al terzo innamorata. Oh, quali occhi io meschin guardai, e qual grand'uomo cari io chi lo sai. Conca sia fosse che quantunque sia, anzi, miseria l'unica della tua dote, mi corrisponde un cuore trionfale. Più a titoli spontanei aspillatico ti assegno un gran castello in controdote. Del doppietto